want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Soundcheck. Microphone check. Il suono della musica. DJ Jet Telesforo. Sì, siamo pronti per il soundcheck di Radio 24, a tutti voi in contatto, buonasera a tutti da Gegè Telesforo e vado subito a salutare il nostro ospite, è un piacere ritrovarlo questa volta nello studio di Radio 24 per raccontare la sua musica, per parlare di musica. Qualche mese fa siamo andati a stanarlo nella sua abitazione studio dove stava iniziando la lavorazione del nuovo album e il lavoro sta andando avanti, ma lo racconterà lui. Ladies and gentlemen, vado a presentarvi il nostro amico Sergio Cammariere. Buonasera e benvenuto al Soundcheck, Sergio. Buonasera a tutti voi, ben ritrovato Gegè. Allora, sono contentissimo perché sono riuscito a stanarti dallo studio. Stai chiuso lì dentro in quella casa bellissima col tuo giardino e tutti i tuoi gatti, ma non venivi fuori dallo studio ormai da quanto tempo? Sono stato chiuso parecchi mesi, adesso sono in una fase definizione, nel senso mancano i canti e poi mix, quindi siamo quasi d'arrivo. Sì, stiamo raggiungendo il traguardo. Il disco nuovo uscirà a settembre-ottobre, prodotto da Sony, e vedremo. Allora, io te la voglio fare subito la domanda, perché dopo la tua partecipazione al Soundcheck nell'edizione quotidiana ho ricevuto tantissime email di tuoi accaniti sostenitori che mi chiedevano: ma puoi chiedere a Sergio quando tornerà a esibirsi, a fare i concerti? Perché tu hai sospeso anche l'attività concertistica per un po' di tempo. Beh sì, perché sono stato concentrato su questo nuovo album nel quale ho coinvolto tra l'altro tanti musicisti oltre alla mia famiglia musicale: Amedeo Oriano, Luca Bulgarelli, Fabrizio Bosso, Bruno Marcozzi, ci sono anche Roberto Taufik, brasiliano, il grande chitarrista, e anche Alfredo Paixão al basso, Antonello Salis alla fisarmonica. Sarà un disco nuovo e i concerti sono, quindi li ho un po' leggermente abbandonati, anche se quest'anno il 2 agosto per esempio saremo a Ravello Jazz Festival. Questa è una bella notizia, cioè ritrovarti dal vivo con la tua band vederti raggiante dietro al tuo pianoforte. Esatto. Allora, Sergio, noi oggi abbiamo un po' di musica nuova da ascoltare, ma prima di presentarti questa bellissima donna, una bellissima ragazza che è nativa di Capoverde, anche se poi la sua musica risente di varie influenze stilistiche, è un po' brasiliana, un po' portoghese, c'è sicuramente l'influenza della Morna, della sua isola, ha viaggiato, quindi insomma si sente un po' di tutto. Tra l'altro sarà al Blue Note a maggio e vi sto parlando di Maíra Andrade, bellissima ragazza e fa musica bellissima. Questo è un disco nuovissimo appena pubblicato per la Columbia Records dalla Sony. L'album si intitola Lovely Difficult. Io vorrei ricordare a tutti gli amici in contatto su Radio 24 che il 30 di aprile si festeggia in tutto il mondo l'International Jazz Day. Herbie Hancock è l'ambasciatore ufficiale per l'UNESCO di questo importante momento di celebrazione della nostra musica preferita, e quindi concerti in tutto il mondo. Il concerto principale sarà realizzato quest'anno a Osaka in Giappone con una sfilza di nomi impressionanti, ma anche da noi non mancheranno gli eventi. Quindi nel sito ufficiale dell'International Jazz Day troverete paese per paese tutti gli eventi legati a questa giornata dedicata al jazz dall'UNESCO ormai dal novembre 2011, per cui scegliere quello più vicino alla vostra località. Certamente in Italia importanti sono il Jazz Festival di Torino, che celebra l'International Jazz Day, e anche questo concerto che abbiamo organizzato insieme alla rivista Jazz It, quindi con Luciano Vanni, Roberto Ramberti di Groovemaster Edition, qui a Roma all'Auditorium Antonianum, che raccoglierà in un'unica serata, in 3 ore di concerto, ben 50 musicisti di jazz italiani, fra nuovi talenti, quasi nuovi talenti e naturalmente veterani del genere, e quindi 3 generazioni di musicisti insieme per festeggiare con un un grande party la musica jazz. E spero, Sergio, e te lo faccio in diretta l'invito, che tu possa essere libero da altri impegni per raggiungerci e volendo suonarci qualcosa. Volentieri, se non sono i Mix sarà un piacere riabbracciare Fabrizio Bosso e tutti gli amici che saranno presenti a questo evento. Allora andiamo subito ad ascoltare insieme e poi mi dirai che cosa ne pensi. Maira Andrade, questa è una novità anche per noi, il brano è bellissimo, si intitola Tres Menino, qui al Soundcheck di Radio 24. E vida al ser más suave, camino más bonito, pa cada un de nós. E brinca, brinca, brinca sempre, de maravilha, com asa sempre limpa em nós, a tudo hora. Sergio Camariere, nostro ospite, che ha ascoltato con attenzione la voce e il suono di Maira Andrade, che ne pensi? Mi ricorda tantissimo, è bravissima, mi ricorda tanto l'atmosfera di Cesaria Evora. Certo, perché viene da Capoverde, quindi la morna è nell'aria. Sì, e nel suo DNA credo ci sia anche un gruppo angolano che... molto famoso negli anni, fine anni 80, 90, poco conosciuto in Europa, che si chiamano i Gomez Brothers. Ah, devo andare subito a prendere informazioni. E chi ti ha consigliato questa band? È un amico, un ex discografico italiano che vive a Marrakesh, mi ha indicato questo gruppo angolano che è veramente fantastico. Sono due fratelli che suonano questo tipo di musica. Però ecco, benvenga Maria Maira Andrade. Maira è veramente brava, veramente brava, e spero di avere anche il tempo di fare un salto al Blue Note a maggio. Adesso poi diremo quale sarà la data esatta per poterla apprezzare anche dal vivo. Tu ti sei tolto di varie soddisfazioni, hai vinto vari premi, hai partecipato due volte a Sanremo, hai vinto la targa Tenco come migliore inedito, i tuoi concerti, tutte le migliori disco, no? Sì, sì. Opera prima, l'opera prima, però il primo anno nel 97 a premio Tenco vinsi un premio dell'IMAIE, che nasceva in quell'anno per l'Italia, che l'istituto, cioè quello che tutela gli interpreti e gli esecutori. Io fui il primo emergente premiato, ero già... Poi hai vinto anche il premio Carosone, hai vinto il premio Di André, miglior artista dell'anno, insomma ti sei levato varie soddisfazioni, hai fatto tanto nella tua carriera. Adesso quando riascolti la tua musica, la musica che hai prodotto, che sensazione hai? Beh, per esempio tra poco ne sentiremo uno tratto dal mio terzo album. Sì, belle sensazioni, soprattutto quando le produzioni ti davano la possibilità di coinvolgere orchestre sinfoniche, grandi ensemble, ecco. Nel prossimo pezzo, Non mi lasciare qui, che è stato il singolo d'apertura del mio terzo album, Il pane, il vino e la visione, c'è Roberto Gatto alla batteria, c'è l'orchestra d'archi diretta e arrangiata dal mio amico Paolo Silvestri. Ah, bravissimo! Sì, poi c'era Bebo Ferra alla chitarra. Hai buon gusto anche nello scegliere i musicisti, i partner per le tue avventure. Allora ascoltiamo subito Non mi lasciare qui, Sergio Camariere al Soundcheck di Radio 24. Non mi lasciare qui, tra questa polvere, tra questo ferro che diventa ruggine. Non leggo, non studio, mi alieno, mi ricompongo tre note classiche in un raccolto di altro, poi fuggo lontano. Soundcheck, il suono della musica. Sì, Sergio Camariere, nostro ospite qui al Soundcheck in questa prima ora, e ti porto i saluti di un tuo corregionale, che è il nostro Francesco Tromba, il mio redattore. Purtroppo oggi non è presente perché molto costipato e raffreddato, e mi ha detto di portarti questo dono che solo tu, che sei calabrese, potresti apprezzare. Io non ho neanche capito che cosa c'è in questo barattolo di vetro, ma guarda, tu probabilmente... lo vedo, è anduia tipica, anduia, cioè... al 100%. Sì, esatto. Mi ha detto solo di dirti che nella, come si dice, nella scala di piccantezza, si dice così, è numero 9 questo, che significa? Beh, che è una bomba. Io in realtà sono nato nella parte ionica, a Crotone, dove non usiamo l'anduia, usiamo la sardella, che è il pesce neonato, che insieme al peperoncino, insomma, si fa una specie di roba che si spalma, che è incredibile. Ecco, mi ha detto comunque che questo è curativo, aiuta la pressione, varie cose, ma insomma poi ti spiegherà lui a cosa serve esattamente questo barattolo che vedo carico di colore rosso e quindi con tutto il piccante. Ringrazio molto. Ringrazierò da parte tua Francesco Tromba. Allora, Sergio Camariere, nostro ospite, per parlare come sempre di musica, si sta preparando per affrontare quindi le fasi finali della registrazione del nuovo album, un album che sarà molto diverso dagli altri o ripercorre un po' la stessa cifra stilistica? No, cioè, ci sono sempre le canzoni scritte con Roberto Kunstler, qualcuna insieme a Casale, ci saranno canzoni un po' più bossa nova e altre un po' più jazz, comunque sempre in mezzo tra la canzone d'autore e la musica che mi piace ascoltare. Ecco, che cosa stai ascoltando? Consigliaci dei dischi che possiamo acquistare anche per me. Ultimamente, per esempio, questo bellissimo concerto che si trova facilmente su YouTube del grande chitarrista brasiliano Toninho Horta con Ronnie Cooper, cioè questo concerto tenutosi a Köln, a Colonia, con l'orchestra appunto di Colonia, molto ma molto bello, perché poi i suoi brani sono lì troppo fantastici. Però adesso parliamo di questo grande pianista, questo giovane. Beh, non è giovanissimo, è un pianista militante, anzi più che pianista è un compositore, soltanto che la Blue Note, che ormai da quando ha prodotto Nora Jones, ha aperto un po' i confini, quindi non solo jazz, ma anche musica che in qualche modo è contaminata da influenze bluegrass, country e sonorità tipicamente americane. Questo signore si chiama Ben Montench, l'hai mai sentito, lo conosci? Beh, prima me l'hai fatto sentire tu, prima di andare in onda, e devo dire che mi è piaciuto tantissimo, perché suona in un modo particolare, e poi nel brano che ascolteremo credo che ci siano due pianoforti, lui si è doppiato, e ascoltiamolo veramente. Sì, lo ascoltiamo. Il brano si intitola Wobbles, lui è Ben Montench per la Blue Note Records, dall'album nuovissimo intitolato You Should Be So Lucky. Si intitola You Should Be So Lucky, l'album di Ben Montench per Blue Note Records. Il brano era Wobbles, che ci ha fatto fare un giro un po' nel sud degli Stati Uniti con questo suono a cavallo, come dicevo, fra il blues, il bluegrass, country. Comunque molto piacevole il disco, e tra l'altro lui è anche un bravo cantante, non di quelli a voce spiegata, ma un cantante che emoziona. Io credo che la voce debba sempre emozionare, al di là degli aspetti tecnici e muscolari molto utilizzati in Italia. Assolutamente, i grandi cantanti brasiliani, João Gilberto in primis, insegna appunto questo intimismo, il sussurrare con la voce, no? Tu hai studiato pianoforte, no, quando eri ragazzo, ma hai studiato anche canto, o il canto è sempre stata una cosa istintiva per te? Ma è sempre stato istintivo, ma la prima esperienza musicale è nata in un coro di voci bianche. Ecco, io cantavo in questo coro. Ma dove? A Crotone? A Crotone, ma poi siamo stati anche a Castrocaro Terme, a Lugoletta d'Oro nel 1900. Addirittura avete fatto la tournée proprio? Sì, abbiamo fatto il tour, eravamo 40 bambini, e lì che ho cominciato a suonare la melodica soprano, che era questa tastierina a fiato, due ottave. Che poi ho trasposto, come si può dire, dalle manine piccole, le manine crescevano e sono passato al pianoforte. È cresciuta anche la tastiera, quindi sei passato direttamente al pianoforte, strumento che ti ha sempre accompagnato. Per un bel periodo della tua carriera, proprio agli esordi da musicista, tu ti dovevi mantenere e naturalmente hai fatto la vera gavetta. Io lo so perché venivo ad ascoltarti in locali e localacci dove suonavi di tutto, sempre con grandissima professionalità, e io mi ricordo quel periodo proprio negli anni Ottanta, quando funzionavano e erano ancora in auge i piano bar, che venivo a trovarti e sul tuo pianoforte c'erano signore piene di gioielli, ubriache, col prosecco in mano, che ballavano e facevano di tutto. Ricordi quel periodo? Come lo ricordi? Beh, è stato un passaggio importante, insomma, perché per ogni musicista, per chi crede, insomma, in questo sogno di fare il musicista da grande, bisogna anche attraversare questi step, cioè mantenersi, non chiedere i soldi a mamma e papà, ma riuscire a crearsi un'indipendenza attraverso il proprio lavoro con umiltà. Ecco, sono contento che tu dica questo, perché oggi i ragazzi pensano che per fare musica è importante solo ed esclusivamente avere il successo, non si sa come, ma subito. Sì, purtroppo sì, è vero, hai toccato un argomento che beh, inutile far polemica, insomma, è cambiata un po' l'attitudine di chi fa la musica, di chi la vuole produrre, di chi l'ascolta, perché le nuove tecnologie hanno aperto nuovi confini e allora si cerca di andare più in fretta, ecco. Più in fretta, ma poi anche c'è il culto dell'immagine, no? Tutti vogliono apparire, tutti vogliono essere più bravi, e c'è molto, attraverso la televisione, un messaggio che spinge nei confronti della musica a essere competitivi. Sì, e poi c'è da dire che all'inizio degli anni 90, verso la fine degli anni 80, nacque il karaoke, e il karaoke è stato proprio il mondo, cioè, devastante per te, sì, o no? Per un delirio, perché chi suonava veramente poi doveva misurarsi con chi non suonava, aveva delle basi e abbassava i costi, ecco. Abbassava, cioè, i costi, ma abbassava anche il livello. È vero, perché se prima nei locali c'erano musicisti che suonavano il pianoforte, la chitarra e cantavano, poi improvvisamente sono apparsi i karaoke un po' dappertutto e hanno tagliato anche una bella fetta di lavoro ai musicisti. Sì, però la nuova generazione, i ragazzi di oggi, se ne accorgono se uno ha talento o no e cominciano ad apprezzare, appunto. Questo perché? Perché c'è internet. Esatto, si può ritrovare la musica del passato, che è la vera fonte Di ispirazione. Io lo dico sempre, un bravo musicista non deve mai dimenticare il passato, deve essere cosciente del presente per essere proiettato nel futuro. Ti piace questa cosa? Bravissimo, Gesù. Ah, grazie, sei molto gentile. Allora, visto che siamo proiettati nel futuro, ti faccio sentire qualcosa di molto contemporaneo, il nuovo suono di Nene Cerri. In giro per il mondo, a livello internazionale, l'abbiamo tutti apprezzata e conosciuta quando con Yosundur venne fuori un album di grande successo che conteneva Seven Seconds, lo ricordi? Il brano bellissimo. Adesso Nene Cerri torna con un nuovo album che si intitola The Blank Project. Il brano che vi presentiamo, un po' acido, è Spit Three Times. Nene Cerri al soundcheck di Radio 24. I thought you were gone out of my life. I'm not surprised, clever disguise, but you're like a demon, want to feed in to satisfy. Realize monkeys on my back holding me down, black dogs in the corner looking up at me. Sound check. Il suono della musica. It's been a long night in New York City. A long time since 22. I don't remember you looking any better. But then again, I don't remember you. I Sound di John Mayer con Who Says, e lui sì, ottimo chitarrista, bravissimo musicista, cantante, songwriter molto amato in tutto il mondo, anche noi lo apprezziamo come musicista per aver partecipato ad alcune produzioni realizzate da Herbie Hancock o dal chitarrista John Scofield, quindi un musicista versatile ma soprattutto un eccellente compositore contemporaneo, così come è un eccellente compositore il nostro Sergio Cammariere, che oggi ci ha dato l'onore di venirci a trovare ancora una volta. Io sono felicissimo sempre di vederti e sapere che l'album sta venendo fuori bene, e ti vedo sorridente, sì, pronto, sì, per affrontare l'attività concertistica. Sì, verso settembre-ottobre sarà pronto e... È un bel disco, non posso ancora dire il titolo, però sta venendo fuori bene. C'è il suono che volevo io, acustico, suono di chitarre, con la fisarmonica, con... Ma il sound è tipicamente italiano, ti rifai un po' alle influenze americane, a tutto quello che hai ascoltato nella vita, di etnico e non? Ma c'è un po' il sound mio, cioè quello che mi piace elaborare, scrivere, comporre, è un suono sicuramente acustico e progressive nello stesso tempo. Io spero proprio di vederti il 30 di aprile all'Auditorium Antonianum di Roma per questo International Jazz Day. Se tu non dovessi venire, però ti prego di partecipare anche da casa all'evento, promuovendolo, perché credo sia un momento molto importante per la musica. No, l'ho già fatto tramite Facebook, ho già messo il link del festival, ci sono pochi posti a disposizione, ormai saranno finiti. Questo non lo so, vedremo, sì, perché il teatro ha 580 posti a sedere, una cosa del genere, e naturalmente ci sono attivate le prevendite online da un po' di tempo, e quindi considerando che ci sono 50 musicisti, se già i 50 musicisti portano 3-4 amici e famiglie a carico, il teatro va subito esaurito. Comunque noi vi aspettiamo numerosi, continueremo a parlarne soprattutto nella puntata di domani, ma noi siamo qui per concludere la prima ora del soundcheck di oggi, quindi non ci resta che salutare il nostro Sergio Cammariere. Io ancora una volta ti faccio i migliori auguri per la musica e per la tua vita, e vorrei però che ci presentassi questo brano intitolato Libero nell'aria. Un brano importante, fa parte del mio secondo album Sul Sentiero, insieme alla mia grande famiglia musicale ci sono sempre gli arrangiamenti di Paolo Silvestri, il brano si intitola Libero nell'aria, e la tromba di Fabrizio Bosso, ovviamente. Buon ascolto e ci risentiamo alla prossima. Grazie Sergio Cammariere al soundcheck con Libero nell'aria, poi facciamo una brevissima pausa e torniamo con grande musica, sempre qui su Radio 24. Pensiero che volava libero nell'aria, guidando immerso in aria in via del tutto straordinaria. Presero l'Europa, presero New York, ed era già di moda una musica nei metro. Can you hear me? Mi. Soundcheck, il suono della musica. Dopo le news, dopo l'informazione di Radio 24, di nuovo in contatto con il soundcheck, la prova del suono di Radio 24 con Giorgio Telesforo, seconda ora di grande musica e seconda ora che affronteremo con una ospite giovane, carina, brava, simpatica, ma soprattutto un eccellente musicista, pianista, cantante, arrangiatrice, compositrice, ha da pochissimo pubblicato un album a suo nome intitolato Controvento, ma è una musicista, lo fa da tempo, anche se giovanissima, credo tu abbia preso la laurea adesso in musica da pochissimo. Comunque vi sto parlando di Carolina Bubico. Buonasera Carolina, benvenuta al soundcheck. Buonasera a tutti, buonasera Gigi. Allora, hai preso questo diploma in musica o ci siamo vicini? Ho fatto il triennio, sì, di piano jazz al Monopoli, e adesso sto seguendo il primo anno del biennio. Ho visto che ti sei fermata qualche secondo con Sergio Cammariere, cosa ti ha detto Sergio? Mi ha salutato simpaticamente, mi ha detto ciao. Ma sa che sei una musicista? Ma penso proprio di sì. Beh, si vede dalla faccia, no? Perché i musicisti io li riconosco proprio dalle espressioni, dall'atteggiamento, soprattutto musicisti che hanno nel DNA una certa formazione musicale. Tu sei salentina, esattamente, sei nata a Lecce, no? Sì, sono di Lecce. E quindi nel DNA dovresti avere un po' di Taranta. Che percentuale di Taranta o di tarantolata sei tu? Ma devo dire che c'è una bassa percentuale. Da sempre. Ma perché? Come ti sei formata musicalmente? Che musica si ascoltava a casa tua? Bah, insomma, musica del mondo in generale. Tanto jazz, perché mio padre dall'89 insegna, ha preso la cattedra a Lecce al conservatorio, quindi chiaramente è super jazzista, quindi mi ha fatto ascoltare tanto, l'ho apprezzata un po' dopo, devo dire, e lui inizialmente mi ha forzato, poi nel tempo l'ho imparata ad amare. Ma raccontami un attimo qual è stato il rapporto attraverso la musica con il tuo papà. Cioè, il tuo papà ti ha fatto lezioni di musica o naturalmente ha lasciato che tu ti esprimessi e ti formassi insieme alla musica? Allora, sin dall'inizio ho avuto tanta libertà. Parentesi, sia mio padre che mia madre, perché ha avuto una scuola di musica, ha aperto una scuola di musica quando sono nata, quindi ho fatto tanto lavoro propedeutico anche con lei, musica d'insieme, sin dall'inizio, però mi sono sempre sentita libera. L'unica cosa che mi hanno imposto, e ne sono fiera e sono felice che l'abbiano fatto, è farmi studiare parecchi strumenti sin da bambina, cose che non mi interessavano, un anno di violoncello, un anno di batteria, che lì per lì non trovavo il senso, il motivo o il totale piacere. Però adesso devo dire grazie per questo, perché mi hanno dato una visione globale della musica. Quindi quando tu scrivi pensi anche all'arrangiamento, pensi agli strumenti che devi utilizzare, perché poi ho notato anche nell'album che tu hai prodotto che ti sei divertita a suonare un po' di tutto e a guidare la band che poi ha realizzato il disco, o no? Beh sì, diciamo, ho voluto coinvolgere parecchi strumenti, parecchi musicisti, ma è stato molto improvvisato, perché in realtà doveva nascere un disco in trio, evoluzione del mio solo, e poi ho iniziato a pensare agli archi, ai fiati, li ho inseriti, li ho coinvolti, ci ho scritto delle cose, è diventato un disco un po' più orchestrale. Che cosa insegna il tuo papà al conservatorio? Lui è pianista, però diciamo il coordinatore di tutto il dipartimento di nuove tecnologie, appunto. E quindi tu utilizzi anche il computer o no? Ma devo dire che sono un po' scarsa a livello tecnologico, però sto imparando. Allora, io direi di partire subito con la musica, e prima di ascoltare un brano estratto dall'album Controvento, magari poi dopo ascoltiamo proprio la traccia che dà il titolo a questa pubblicazione di Carolina Bubbico, un artista da tenere d'occhio, e io infatti voglio sapere perché non sei ancora diventata ricca e famosa, ma lo diventerai, te lo auguro. Vorrei partire facendoti ascoltare una cantante, una vocalist inglese, bianca ma con il sound tipicamente nero del DNA. Questa signora, perché non è più giovanissima, si chiama Alice Russell. La conosci? Poco. Poco. Allora, Alice Russell qui con For a While al soundcheck di Radio 24. Explanations are to a penny, and then you fall quiet. Communication fade. Soundcheck. Il suono della musica. Down. Oh. voce inconfondibile di Erykah Badu con Window Seat da America Part 2. Questo brano ricorda nel testo un momento molto difficile per gli Stati Uniti, l'assassinio di Fitzgerald Kennedy lì a Dallas, e così Erykah Badu ha realizzato anche un video un po' contestato e vivendo anche un momento difficile per la sua carriera, perché non avendo chiesto le autorizzazioni per poter girare lì a Dallas il video, alla fine è arrivata la polizia e l'ha arrestata, cosa che non è successa ancora a Carolina Bubbico, ma quando deciderà di registrare il suo videoclip, che so, davanti alla questura di Lecce, forse potresti avere dei problemi, o no? Speriamo proprio di no, sinceramente. Allora Carolina, parliamo subito dell'album Controvento, stato pubblicato qualche mese fa. Ho notato e noto con piacere che questo disco è ancora presente nella classifica degli album più venduti per quel che riguarda il jazz su iTunes nel nostro paese. Sono molto contento, anche se poi è un disco piacevole, non strettamente jazzistico come forse si sarebbe aspettato il tuo papà, perché hai dato sfogo alla tua vena creativa, alle tue composizioni, ai tuoi testi e alla tua musica. Quindi come nasce questa pubblicazione intitolata Controvento? È un lavoro che è nato nel tempo, dopo questo regalo della Loop Station, con cui ho iniziato ad approcciarmi. E possiamo raccontare che cos'è una Loop Station agli amici che magari non sanno tanto di tecnologia in musica? La Loop Station è un macchinario che ti dà la possibilità di mettere in ripetizione alcuni frammenti, diciamo, musicali, e sovrapporli l'uno sull'altro. Live, dal vivo. Dal vivo, sì, dal vivo. Quindi ho iniziato a lavorare con questa macchina e ho cominciato a scrivere dei testi, che era una cosa che non mi aspettavo di riuscire a fare, della musica, sono diventate delle canzoni, con l'utilizzo di questa macchina che, ripeto, è fondamentale nel mio percorso, perché mi ha dato una possibilità di, diciamo, esplorare anche vocalmente delle possibilità, dei lavori appunto corali che ho fatto, e ci sono molto presenti nel disco. E mi sono poi affiancata a due musicisti fantastici, Luca Alemano e Dario Congedo, che hanno lavorato insieme a me alla produzione di questo disco, e abbiamo creato, diciamo, più che altro abbiamo fatto diventare questi brani nati da sola, appunto piano, voce, in una dimensione così chiamata One Girl Band, e appunto fatti evolvere in brani suonati in trio. Tu sei un artista indipendente, l'album è distribuito ed è stato realizzato per una etichetta indipendente. Ti aspetti un salto di qualità nel mondo della canzone italiana? Ti piacerebbe approdare a una major e avere i tuoi dischi distribuiti così come quelli di Laura Pausini o Giorgia? Beh, io con Working Label appunto mi sono trovata benissimo, perché è una realtà che crede tanto nella bellezza della musica, quindi mi ha accolto in maniera speciale, però sicuramente mi auguro, insomma, di fare un salto, perché no, con una major. Tu stai continuando a scrivere musica? Sì, devo dire, sto già pensando, ho quasi finito tutti i brani del mio prossimo disco. Del prossimo disco, e facendo questo pensavi anche, che ne so, alla partecipazione a un festival di Sanremo, cose di questo tipo? C'è stato un tentativo quest'anno che non è andato bene, sono arrivata alle finali negli anni 60 e poi scartata. Ma questo mi dispiace tanto, perché l'edizione sanremese di quest'anno non è che abbia offerto musicalmente granché. Beh, devo dire sì, soprattutto nell'area giovani mi aspettavo un pochino meglio, non perché non sia stata presa io. No, però tu ti aspettavi una convocazione, quindi sei arrivata proprio all'ultimo momento e poi ti hanno detto che non eri nella rosa dei finalisti. Sì, chissà quanti l'hanno detto, perché era sicuro, era come eravamo convinti. Nello stesso caso io ero convinta fino all'ultimo che sarebbe andata bene, ma non è andata così, ma va bene. Allora, finora abbiamo parlato del talento di Carolina Bubbico, andiamo a verificarlo subito con la title track di questa pubblicazione. Il brano si intitola Controvento, il pianoforte, la voce, gli arrangiamenti, la musica e le parole di Carolina Bubbico al soundcheck di Radio 24. Corrono la favola. Soundcheck, il suono della musica. Dal Salento con furore, potrei dire, Carolina Bubico, presente qui al Soundcheck. Abbiamo ascoltato Controvento, che apre questa pubblicazione, che porta proprio questo titolo, per questa artista salentina. E sono un po' dispiaciuto, perché venendo anche dalla mia regione, venendo dal Salento, ti sei presentata a mani vuote. Avresti potuto anche omaggiarmi, che so, di Olio Buono, oppure una bella bottiglia di Negramaro. Invece, mi dispiace tanto, non lo hai fatto, quindi ti dovrai rifare alla prossima occasione. E tu mi hai offerto anche il caffè, quindi sono una grandissima cafona. No. Cioè, abbiamo un conto in sospeso. Allora, ma tu sai cucinare, Carolina? Devo dire di sì, sì. Sì, eh? Ma tu dove vivi esattamente? Stai proprio a Lecce? In campagna, 5 km da Lecce, tra Lecce e il mare. Tra Lecce e il mare, potete immaginare che bellezza. Tra l'altro il Salento sta andando molto forte negli ultimi anni, devo dirlo anche un po' incasinato. L'estate scorsa sono passato da Gallipoli, pensavo di trovarmi in una bolgia terribile. Ho trovato Gallipoli molto cambiata. È una giungla, Gallipoli poi è proprio il pulla di delirio totale l'estate. Ma secondo te qual è il successo del Salento in questo momento? Perché, a parte la bellezza del mare, il mangiare bene... Ma c'è bellezza proprio nell'aria in generale, si sta bene, una dimensione umana, le persone sono belle e non lo so, ci sono vari fattori. Ma tu che fai la musicista, non ti senti un po' distante dai punti nevralgici dello show business? Insomma, la musica si fa a Milano, si fa a Roma, tu vivi in Salento, ci sono grandissimi artisti tra l'altro e sono tutti amici e li salutiamo, però come riesci a organizzarti le tue giornate di lavoro e la tua attività da musicista? Fino ad ora ho trovato proprio un modo fantastico di vivere, perché faccio base lì e sto benissimo e poi mi muovo continuamente, quindi meglio di così, mi muovo, vado su, giù, viaggio. Tu stai continuando a studiare musica? Sì, sì, sì, sto facendo questo biennio, quest'anno è il primo anno, insomma l'anno prossimo dovrei finire e basta. Poi. Che cosa ascolti a casa? Ma ultimamente mi sto avvicinando, diciamo, all'R&B, al soul, che... devo dire non mi apparteneva prima, e quindi tanto tanto groove. E della canzone d'autore italiana, per esempio Cammariere, diciamo siamo al top di gamma, come direbbe mio nipote, che cosa ne pensi di lui? Beh, tantissima stima, perché è una persona che è riuscita a dare voce alla una bella scrittura italiana, una bella musica. Ultimamente proprio in questo ambito sto rivalutando e amando tantissimo Lucio Dalla, che prima non conoscevo così bene. Allora, andiamo ad ascoltare un altro brano tratto da Controvento di Carolina Bubico. Ce lo vuoi presentare? Il brano si intitola Di te. Di che cosa parla? Ma è un brano leggermente incazzato verso l'universo maschile, però sempre perché con... Che ti hanno fatto? No. Hai vissuto? Che storia hai vissuto? Questo no, non voglio fare polemica, cioè tanta stima verso gli facciamola, uomini. Facciamola. No, è il riferimento, insomma, un po' di storie travagliate con uomini della mia vita, però è un po', mi sono voluta sentire donna in questo pezzo, ecco. È bello che ha detto non con l'uomo della mia vita, con uomini della mia vita. Questo è molto importante, mi piace molto. Carolina Bubico, di te, o forse di non si sa, no, di chi, eh? No, di te. Ah, di te, bene. Carolina Bubico al Soundcheck. Sì, parla di storie d'amore travagliate, quelle vissute da Carolina Bubico, qui in questo brano intitolato Di te, presente al Soundcheck di Radio 24. Lo sai che il 30 di aprile si festeggia l'International Jazz Day in tutto il mondo? Tu suonerai, sei già impegnata? Per ora no, mi piacerebbe esserlo. Quanto è importante il jazz secondo te per la musica in generale? Tantissimo, perché è un linguaggio che ti dà la possibilità di essere libero in maniera particolare rispetto ad altri generi. Quali sono stati gli artisti di riferimento per la tua formazione musicale, Carolina? Ma vocalmente negli anni tantissimo Bobby McFerrin, per esempio. è stato un personaggio che mi ha segnato e ultimamente sono molto vicina a pianisti, appunto ne parlavamo prima, come Robert Glasper, che ha fatto un lavoro secondo me incredibile e che mi ha segnato tanto, grandi voci del jazz e non, insomma un po' misto i miei ascolti sono un po' misti. Conosci un trombettista che si chiama Nicholas Payton, che se la suona e se la canta molte volte, cioè un trombettista che viene dal jazz tradizionale, però negli ultimi anni si è dedicato anche a suoni contemporanei, a una visione molto moderna del jazz e non solo del jazz. Sì, lo conosco, lo apprezzo moltissimo. E allora te lo faccio ascoltare, Nicholas Payton, da solo in studio di registrazione, ha realizzato nel 2011 un album che ha colpito molto, perché un po' come dicevi tu, ha fatto Robert Glasper, musicista che viene dal jazz, si è dedicato al suono più R&B e più contemporaneo, ma qui Nicholas Payton suona tutto lui, dal pianoforte alla batteria al basso, e canta anche benissimo, e ce lo dimostra in questo brano che è una specie di ballad contemporanea scritta proprio da Nicholas Payton. Il brano si intitola Give Light, Live Life, Love. Nicholas Payton al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Prendi tempo, prendi, non c'è niente che ti fermi. L'imbarazzo scivola su quella schiena ruvida, ma don't stop, chiudi gli occhi e vedi un po' se c'è gente pronta a rivedere il mondo che non ho. La mia mente sfoga, spazia, ride e si rilassa su una nuova era che avrà quella vibrazione giusta. Ci crederò, svelerò, scoprirò il mio animo. Si intitola Controvento, l'album di Carolina Bubico, nostra ospite, proprio per presentarci questa produzione che ormai lei considera già vecchia, perché sta lavorando sul nuovo disco. Che cosa stai scrivendo? Intanto dimmi un po', questo brano si intitolava A me piacerebbe ridere, e tu ridi spesso, sei una ragazza sorridente perché vieni dal Salento, non puoi che sorridere quando vivi in un posto così bello. Che cosa pensavi, a chi è dedicato questo brano? Dedicato alla gente, a me stessa in primis, e poi insomma un po' un manifesto appunto della bellezza delle piccole cose, della quotidianità a cui io tengo molto e cerco di concentrarmi. Eh sì, quella è una filosofia, sorridere anche di fronte alle difficoltà. Eh sì, assolutamente. Allora, quanto è difficile scrivere musica e quanto sarà difficile registrare il nuovo album? Ma spero che non sarà così difficile, voglio che sia intenso assolutamente come è stato questo primo album, che mi ha dato un sacco di emozioni, mi sono messa a piangere la prima volta che ho sentito le prime cose registrate, e voglio sentire le stesse cose per il prossimo che sto lavorando con il maestro Peppe Vessicchio. Oh, questa è una bella notizia, col grande Peppe Vessicchio, che spero di avere ospite del nostro soundcheck. Mi devo far raccontare un po' di cose da Peppe, soprattutto le dinamiche che riguardano la musica leggera italiana e il Festival di Sanremo, dove dovrai andare prestissimo se lavori con Peppe Vessicchio. Mi sembra quasi una cosa automatica, o non è così? Ma non per forza, mi sono tolta un po' da questa, non l'ho mai avuta questa fissa, mai. Quest'anno mi era venuta in mente, poi diciamo ho incontrato questa persona fantastica con cui comunque mi trovo bene, a prescindere dall'esperienza, che non è andata a buon fine, ma c'è tanta positività nell'aria, tanta voglia di fare cose belle. Quale sarà il ruolo di Peppe Vessicchio per la produzione del prossimo disco? Solo quello di arrangiatore bravissimo qual è, o ci metterà le mani anche come producer? No, producer e arrangiatore, stiamo già lavorando insieme, insomma, e ci troviamo molto bene, c'è un bel feeling. Vabbè, mi auguro che Peppe, da bravo musicista, non lasci andare anche la tua vena musicale, e quindi ti lasci anche un po' libera di esprimerti anche sugli arrangiamenti. No, lui la conosce molto bene quella mia vena, anzi. Nel senso che avete già discusso e litigato? No, anzi, lo farete presto, dai, lo farete presto. No, speriamo di no, insomma, di non litigare troppo. Allora, noi siamo in chiusura, io vorrei soltanto ricordare che domani torniamo sempre qui su Radio 24 a partire dalle 15.30 con la puntata interamente dedicata all'International Jazz Day, perché lo ricordo, il 30 di aprile si festeggerà in tutto il mondo The International Jazz Day per l'UNESCO. Herbie Hancock è l'ambasciatore di questa giornata importante per tutti i musicisti, per dare in qualche modo, mettere in evidenza i valori importanti di questa musica. Non so se tu suonerai il 30 di aprile, mi hai detto che forse non suonerai, però se ci vuoi raggiungere a Roma all'Auditorium Antonianum e vivere con noi questa bella festa con oltre 50 musicisti sul palco, saremo tutti felici, Carolina. Beh sì, mi farebbe piacere, ci penso. E allora vedi di organizzare una macchina che sale su dal Salento e così ti ricordi anche di portarmi quelle primizie salentine delle quali parlavamo, magari una bella bottiglia di Negramaro, non fa mai male. Un po' di caffè, buono. Sì. Eh sì, è vero, si produce il caffè da quelle parti. Sì. Un po' di conserve, un po' di peroncino, vediamo. Beh, fai tu, mi piace tutto, mangio di tutto, così come ascoltiamo buona musica qui al Soundcheck, quindi vi ringrazio tutti, noi ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 24, e cara Carolina, ti lascio con la musica dei Roots che accompagnano un'altra voce, guarda, lasciami passare questo bisticcio di parole, una voce leggendaria che è quella di John Legend. Ti è piaciuta questa? Molto, molto, molto. Il brano è un classico, si intitola Compared to What, da un album di qualche anno fa intitolato Wake Up. A tutti voi buona serata, buon sabato sera e buona musica da Gigi Telespo.